Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Quando sono le 7:20 minuti, debosciati di tutta Italia, ben svegliati ed eccoci qua a leggere i giornali con voi. Vi ricordo che oggi parleremo con i nostri ospiti di un po' finanziamento pubblico ai partiti. Indovinate un po', indovinate un po'. Si è quasi azzerato tutto. E dire che il Premier Letta ha detto: o si decide tutto in autunno o faccio il decreto legge. E qua ritorna tutto in commissione. Avremo oggi il presidente della commissione affari costituzionali della Camera, Francesco Paolo Sisto, onorevole del Popolo della Libertà. E ritorna in commissione la legge che vuole cambiare il finanziamento pubblico ai partiti. Poi parleremo alle 8:30, parleremo di quello che sta per succedere in questi 3 giorni a Cantù, dove c'è un festival organizzato da Forza Nuova, con l'arrivo anche, pare, di alcune organizzazioni di estrema destra da mezza Europa. Una manifestazione che sta suscitando polemiche perché il sindaco sostiene il diritto a questa manifestazione a parlare, da concedere a tutti, e invece ci sono molte persone, l'Associazione Nazionale Partigiani, che protestano, dicono che non bisognerebbe dare parola e suolo pubblico a persone che inneggiano anche a, per esempio, il fascismo. Ne parliamo alle 8:30, la libertà di parola. Ora andiamo a tuffarci nella lettura oggi gustosissima dei giornali. Questo venerdì 13 settembre. Peter, venerdì 13 settembre, venerdì 13. Molto bene. Il Sole 24 Ore, il titolo BCE, obiettivo deficit a rischio. Questo è dal titolo di prima pagina, l'allarme sui conti italiani, anche per Repubblica, allarme BCE, l'Italia a rischio deficit. Così il Messaggero, la BCE, Italia a rischio deficit. E la Stampa, Italia torna all'allarme conti. Per il Corriere della Sera, primo voto sul caso Berlusconi. Il giornale invece ha carattere cubitalia, Berlusconi ha deciso. Che cosa, direte voi, non chiede la grazia, potrebbe invece accettare i servizi sociali. Il Fatto Quotidiano si concentra sulla nomina di Amato a giudice della Corte Costituzionale. Napolitano manda la consulta all'uomo di Craxi, questo è il titolo del Fatto. Libero invece mette 4 storie. Amato. Il governatore Burlando, che invece di essere ieri al Consiglio regionale in Liguria, era a prendere porcini. La Boldrini, presidente della Camera, che ha lasciato l'utilitaria e invece ha preso una BMW come macchina di rappresentanza. E Abbado, che scrive Libero, ha voluto un teatro fantasma, ci è costato 10 milioni, insomma, accomuna 4 storie. Il titolo è Porcini di Stato. L'Unità, invece, Italia, tragedie operaie. La vendetta di Riva dopo le inchieste, stop al settore acciai, e Riva chiude rivolta all'Ilva e anche per il secolo XIX. Il manifesto, ci sono degli operai dell'Ilva fotografati e il titolo è Ricatto d'acciaio. Lo vedremo. Intanto voglio partire da che cosa? Proprio la nomina di Giuliano Amato oggi dà lo spunto a diversi articoli, alcuni critici, per esempio Mario Giordano, che lo ha sempre letto come uno dei rappresentanti della casta, anche per le sue dorate pensioni, oggi mette appunto in prima pagina di Libero: in attesa di risolvere il problema dell'occupazione degli italiani, abbiamo risolto il problema dell'occupazione di Amato. Il capo dello Stato lo ha nominato giudice della Corte Costituzionale, stipendio 403.840 euro l'anno, 30.000 al mese. 3 assistenti, 3 segretarie, telefonino, computer, auto blu. Non è questo il modo di riempire la pancia degli italiani, di certo, ma almeno la sua sì, scrive Giordano. D'altra parte, quella di trovare la poltrona adeguata al dottor Sottile era diventata una vera e propria ossessione negli ultimi tempi. Lo piazziamo al Quirinale, a Palazzo Chigi, consulente al Ministero, in qualche comitato di controllo. Non c'è una cadrega libera del 2013 cui non sia stato in qualche modo candidato e non c'è stato giorno negli ultimi mesi senza che l'establishment nazionale si sia interrogato meditabondo di fronte al vero dramma del nostro paese. Che facciamo fare al nostro Giulianetto? Potevano suicidarsi 6 imprenditori, chiudere 12 fabbriche, crollare spread e mercati, poteva accadere di tutto, ma la vera ansia nei palazzi importanti era impedire a cotanto intellettuale di rattristarsi sulla panchina dei giardinetti. Vabbè, titola Libero, amato giudice, regalati altri 30.000 euro al mese. Il Fatto Quotidiano è ancora più duro, pagina 2 e 3, è l'ennesima poltrona per il signore della casta, l'uomo che è vicino e è stato vicino a Bettino Craxi. Il Fatto Quotidiano, insomma, fa risalire a Bettino Craxi il male di tutto, evidentemente. Ha già un cospicuo vitalizio, scrive Il Fatto, da parlamentare, una pensione colossale, ora avrà un super stipendio con tanto di aumento. Ma la vera notizia, la vera chicca, se volete, su Giuliano Amato la pubblicano Messaggero, Corriere della Sera e La Stampa. Sono delle intercettazioni, andando a spulciare sul caso Montepaschi Siena, le intercettazioni con le quali si evince che Giuliano Amato, come per la verità molti, si rivolgevano all'allora presidente Montepaschi Mussari. Ebbene, in queste intercettazioni c'è uno spaccato un po' tipico dell'Italia. Eccolo qui, Fiorenza Sarzanini, pagina 25 del Corriere della Sera. C'è un torneo di tennis a Orbetello. Orbetello, dove c'è un tennis club di cui Giuliano Amato mi risulta essere anche presidente o presidente onorario a questo punto. Non lo so, comunque è sicuramente da anni è stata ai vertici anche di questo tennis club. Molto appassionato di tennis Giuliano Amato. Ebbene, Giuliano Amato alza il telefono, chiama Mussari quando era presidente del Montepaschi e dice così: mi vergogno a chiedertelo, ma per il nostro torneo a Orbetello è importante perché siamo ormai sull'osso. E dunque è importante che rimanga immutata la cifra della sponsorizzazione. Ciullini, altro dirigente del Montepaschi, ha fatto sapere che il Monte vorrebbe scendere da 150 a 125. Si immagina 1.000 euro. Va bene, dice Mussari, ma la compensiamo in un altro modo. Guarda un po' se riesci, dice Amato. Se no io non saprei come fare. C'hai un gruppo? Lo trovi? La trovo, contaci. Ecco, Giuliano Amato chiamava Mussari per caldeggiare il insomma che non venisse abbassata la sponsorizzazione al torneo di Orbetello. Poi in queste telefonate, in queste carte Montepaschi, Mussari parla anche con Fassino, incontra Berlusconi a cena, parla con Prodi che gli confida che non vuole tornare in politica, insomma altre telefonate, ma questa sicuramente è quella più spassosa. Per La Stampa, Montepaschi era il bancomat della politica, le telefonate a Mussari per chiedere favori e finanziamenti, la Santanchè per esempio intercede per conto del socio Angelucci. Vabbè, c'è anche la vicenda che vi fa tenere certamente le mani sul volante, lo so, quando si è diffuso ieri la voce che il presidente della Liguria Burlando non è andato al primo consiglio regionale post estate, ma era per funghi. Mentre c'era il consiglio regionale, lui twittava le foto dei porcini magnifici raccolti nelle montagne della Liguria. Burlando diserta l'aula e all'ora del consiglio si posta, cioè mette su Twitter coi funghi. Roberto Sculli, tra l'altro, si è difeso, ma anche sul Corriere ci sono le foto di Burlando con i porcini, belli devo dire anche. Diserta il consiglio e twitta la scampagnata, bufera su Burlando anche per il Corriere della Sera. Lui in realtà si difende così: è l'unico giorno libero che avevo in settimana dopo un'estate di lavoro, mi sono preso questo giovedì perché normalmente il consiglio si fa martedì, non c'era nulla di programmato, avevo dichiarato che sarei stato assente per motivi familiari, ho detto nient'altro che la verità. Anche al Corriere, dice Burlando, non ho nulla da rimproverarmi, ho detto il vero, ho chiesto un giorno di ferie perché era l'unico disponibile in agenda, il giorno usuale del consiglio è il martedì e c'è stato un cambio all'ultimo minuto, ormai mi aspettavano a Rondanina, lì ci sono le radici della mia famiglia materna, da lì è partita mia nonna per New York, ci vado una volta all'anno ed è festa grande, mi offrono quel che hanno da offrire, è un momento semplice, si va per funghi nei boschi, è un momento familiare. E dunque ho twittato in perfetta buona fede che ho raccolto i funghi. Io non mi twitto su uno yacht come fanno altri. E quelli che mi hanno detto non dovevi inviare le foto così non se ne accorgeva nessuno, ma io ho risposto no, non mi nascondo, ero a Rondanina dalla mia famiglia e chiunque poteva vedermi. E vabbè, comunque continuerò a farlo? Certamente sì. Diserta il consiglio e va per funghi. E per questo Porcini di Stato, il titolo di Libero, che tra l'altro accomuna anche la vicenda raccontata per la verità dall'Espresso di Laura Boldrini. Così tenete in questo caso le mani sul volante, in questo caso Laura Boldrini potrebbe tenere, la Presidente della Camera, le mani sul volante su una bella BMW, dopo aver predicato, racconta Ignazio Stagno su Libero, dopo aver predicato la moralizzazione, la sobrietà anche dei conti, secondo l'Espresso ha lasciato la vecchia utilitaria, ha aperto il garage, ha preso la BMW serie 5 che lo stesso Gianfranco Fini rifiutò preferendo un'auto dell'ormai defunta alleanza nazionale, e dunque Laura Boldrini ha fatto questa scelta. In BMW si viaggia meglio, sedili in pelle, ampio abitacolo per Libero, e dunque 1.600 cilindrata, una cilindrata che supera i 1.600 e auto di rappresentanza scelta. Evviva, evviva, come avevo detto, no? Gustosa la lettura dei giornali oggi, vabbè. Ognuno poi la pensa come vuole. In ogni caso andiamo alla pubblicità e il meteo, ripartiamo dalla politica italiana. Che succederà? Puntata numero 5342 della Fer Berlusconi. Tra poco ve lo svegliamo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo qui alle 7:36 minuti. Allora, la telenovela Berlusconi. Mercoledì è stato fissato il voto nella giunta che deve decidere sulla decadenza di Berlusconi. Sempre avviso ai naviganti, non pensiate che mercoledì sia un giorno decisivo di alcunché, anche perché c'è una grande così qui pro quo in questa vicenda. Non è che la giunta decide punto a capo, la giunta decide e poi si voterà nell'aula del Senato. E quindi certo si dovrebbero rispettare le stesse proporzioni, però giustamente poi magari va a finire che il voto è segreto nel segreto, quindi non è che mercoledì si deciderà alcunché, non si metterà la parola fine. Mercoledì voto in giunta, così titola Il Sole 24 Ore a pagina 15. L'appuntamento è fissato mercoledì alle 20. Questa è la scelta della giunta per il voto sulla relazione Augello. È il primo voto sul caso Berlusconi e lo stesso Sole 24 Ore precisa non è quello definitivo, che arriverà presumibilmente a fine mese, ma è il primo che certificherà la rottura della maggioranza delle larghe intese, l'indisponibilità di PD e Scelta Civica a mantenere il seggio senatoriale per l'ex premier. Che succederà? Qui al solito i vari retroscena. Oggi ce ne sono però alcuni di interessanti sulla vicenda Berlusconi. Vabbè, Berlusconi che viene dato con ambiente ad Arcore plumbeo, questo è scritto sul Corriere della Sera. L'Unità invece con Claudia Fusani fa una cosa tecnicamente almeno utile di servizio, fa appunto la cronologia di quello che succederà, e cioè il 18 settembre la giunta vota la relazione di Augello. Il 1 ottobre, entro questa data, la giunta dovrà votare la decadenza di Berlusconi effettiva. Poi ci sarà il voto in aula. Intanto il 15 ottobre scatta l'esecuzione della pena e arriva il voto finale del Senato. Quindi il 15 ottobre il voto finale. Il 19 ottobre, entro il 19 ottobre, la Corte d'Appello deciderà gli anni da 1 a 3, le possibilità di interdizione pubblici uffici per Berlusconi. Quindi questo è un po' la timeline, come direbbero negli Stati Uniti. Il 19 ottobre potrebbe essere la data in cui si saprà qualcosa, a meno che il banco non salti subito dal punto di vista politico, ma qui è tutto un interpretare cosa fa Silvio Berlusconi e cosa pensa di fare. Interessante quello che scrive oggi Libero con Franco Bechis, che è il vice direttore, mette la notizia che se confermata sarebbe una vera e propria bomba. Allora, intanto il titolo è: così Silvio nasconde il portafogli ai PM. Perché il vero timore, scrive Libero, di Berlusconi non è certamente la gazzarra in giunta per le elezioni o i destini di Enrico Letta. Il suo vero timore e prima preoccupazione è quella del gruppo Fininvest Mediaset. Perché, e qui sta la bomba lanciata da Libero dal punto di vista della notizia, secondo autorevoli indiscrezioni raccolte dai legali di fiducia di Berlusconi, la Procura di Milano avrebbe preparato, tra i tanti provvedimenti giudiziari che si affastellano in quegli uffici, una bozza di sequestro conservativo delle azioni detenute dalla persona fisica Berlusconi nelle holding italiana 1, 2, 3 e 8, che complessivamente controllano la maggioranza del capitale sociale di Fininvest e quindi anche delle società controllate e collegate, tra cui Mediaset. Insomma, Berlusconi ha paura per questo, dice Libero. La Procura di Milano si preparerebbe a sequestrargli le azioni Fininvest e Mediaset. Per questo tutti i consessi all'interno della casa sono finalizzati a trasferire in fretta e furia il proprio pacchetto alle holding dei cinque figli. Come, insomma, in qualche modo nascondere questo portafoglio di azioni di fronte a questa ipotesi che Libero dà per possibile di sequestro conservativo delle azioni da firmare alla Procura di Milano. Per il giornale invece Berlusconi ha deciso non chiederà la grazia, questo è il titolo di prima pagina. Berlusconi ha deciso non chiederà la grazia, ma piuttosto si affiderà ai servizi sociali. Addirittura una pazza idea spunta invece sul Messaggero ed è questa, la firma Ettore Colombo a pagina 6, la pazza idea è quella di candidare Silvio. Ma come candidare se è incandidabile? Alle europee dell'anno prossimo. Ma come? Come si fa incandidabile? Candidarlo in un paese straniero. Addirittura si fa il nome del paese, l'Estonia. E perché l'Estonia? Perché lì, a Tallinn, nella capitale, ha il quartier generale Ernesto Preatoni, immobiliarista di fama e peso, titolare del gruppo Domina, che vanta grossi insediamenti turistici in Italia, come in Egitto, colui che è considerato, colui che ha inventato, diciamo, a Sharm el Sheikh, no? Tutti gli investimenti immobiliari. Lui ha sede in Estonia con la sua società, è amico di Silvio Berlusconi. L'ipotesi è candidare Berlusconi alle parlamentari in un partito in Estonia, dove certamente non è in vigore la legge Severino sull'incandidabilità. E dunque spunta la pazza idea candidare Silvio alle europee in Estonia. Siamo anche a questo. Tra tutto forse stravince ieri Cicciolina. Sì, Ilona Staller, Cicciolina. È rispuntata in Parlamento, è ex parlamentare, e ha detto così. Silvio accetta la condanna e fai sesso a gogo. Ecco. Magari ci arrabattiamo alla telenovela numero puntata 5982 e alla fine Berlusconi, che tiene in scacco almeno la stampa intesa dei quotidiani con 10-15 paginate al giorno, magari dirà, però questo consiglio di Cicciolina non ci avevo pensato, altro che tutti questi consessi familiari. Allora, intanto anche Umberto Bossi, che torna ogni tanto, fa queste interviste, intervistato oggi da Michele Brambilla sulla Stampa, parla di questa vicenda. Berlusconi non si arrenderà mai, dice Umberto Bossi, l'ho sentito di recente, è molto arrabbiato, ha dentro una grande rabbia. Un Bossi che poi parla della Lega, si è abituato ultimamente a togliersi qualche sassolino anche nei confronti di Maroni, dice vuol fare la macro regione ma non andrà da nessuna parte, mentre ancora più duro nei confronti di Tosi, sentite, mai si sono grandemente amati. Tosi: ho visto l'altro giorno che ha esaltato il matrimonio tra omosessuali, cose contrarie al sentimento della gente. Meno male che se ne va via dalla Lega, vada a far danni altrove. Così Umberto Bossi parla di Flavio Tosi, dicendo, rincarando la dose, Tosi ha rovinato il Veneto, ha espulso, degradando da militante a sostenitore moltissime persone che nella Lega si erano fatte il mazzo per anni. Poi conclude anche un po' deluso, la storia, non pensavo che dentro di noi ci fossero dei traditori, non ci si può fidare di nessuno, e la chiosa sempre su Renzo Bossi. Eccolo qui, sta bene Renzo, è ripartito dallo stop che gli avevano creato a una piccola trattoria vicino a Gemonio. Immagino che il piatto forte sia la trota, il trota e la trota a una trattoria vicino Gemonio. Così Umberto Bossi parla alla Stampa. Sempre per la politica, due cose veloci. I dissidenti del Movimento 5 Stelle, il Fatto Quotidiano giura con Paola Zanca, sono 10 5 Stelle, 10 5 stelle, quindi 10 in movimento, verso l'addio. Ci sono anche i possibili nomi: Tommaso Currò, Paola Pinna, Walter Rizzetto, Aris Prodani, Alessio Tacconi, pronti insieme a Jessica Rostellato, Ivan Catalano, a raggiungere colui che se n'è già andato, come Adriano Zaccagnini, a fare un gruppo separato dal Movimento 5 Stelle. Noi parleremo invece di un'altra questione alle 8:15: il finanziamento pubblico ai partiti rallentato, la melina dei partiti per non perdere i finanziamenti pubblici. Sergio Rizzo a pagina 13, ma anche il Fatto Quotidiano: i partiti si tengono i soldi, legge rimandata, vi rendete conto? Soldi ai partiti, nuovo stop alla legge, Eletta minaccia accordo o il decreto, questo su Repubblica, dove c'è anche un editoriale di Gianluigi Pellegrino dal titolo La beffa dei soldi ai partiti. Per carità, ci diranno che è tutto ancora in discussione, che non è per nulla persa questa opportunità. Ci piglieranno per i fondelli e ne parleremo alle 8:15. Ora il traffico e poi le altre notizie dai giornali e anche il premio La carta costa. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E allora, attenzione, venendo alle cose ben più serie, l'Italia, i conti, la BCE ha dato un monito di quelli che, come dire, ci fa rizzare un po' i capelli, e cioè il rischio deficit per l'Italia. Questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, nonché l'apertura anche di altri quotidiani. La BCE ci ha avvertito: il peggioramento del fabbisogno mette a rischio il conseguimento dell'obiettivo di disavanzo al 2,9% del PIL per il 2013. E dopo la BCE fa l'eco a questo anche il Fondo Monetario Internazionale: l'Italia mantenga i progressi fatti nella disciplina di bilancio. Insomma, anche Mario Draghi ha detto che la ripresa è in atto ma è fragile. E tutti i dettagli di Alessandro Merli a pagina 3 del Sole 24 Ore non fanno pensare a nulla di positivo. Anche per la stampa, la BCE avverte l'Italia: rischio deficit, tra l'altro non solo per i conti internazionali ma anche per il tema del lavoro. Ieri c'è stato questo stop che davvero è uno stop drammatico, quello del gruppo Riva, che ha fermato di colpo le acciaierie in Italia dopo che c'è stato il sequestro di 1 miliardo deciso dai giudici di Taranto. E qui ovviamente la polemica impera sui giornali: il gruppo Riva ferma le acciaierie, questo è il titolo del Sole 24 Ore con Matteo Meneghello, che racconta: dopo gli alti forni si fermano anche i forni elettrici, la famiglia Riva decide di cessare tutte le attività degli impianti di produzione elettrosiderurgica, vale a dire acciaio ottenuto in un forno elettrico, è il cuore pulsante del gruppo. Si tratta di attività dislocate nel nord Italia avviate a cavallo degli anni 60 e 70. Ovviamente tutto questo comporta che 1.400 dipendenti siano stati messi di colpo in libertà. Per il Corriere, dopo il sequestro, l'Ilva sospende 1.400 lavoratori. È un qualcosa che va a impattare ovviamente in vari stabilimenti. Il Secolo XIX, visto che per esempio riguarda anche 300 posti liguri a rischio, mette in apertura: Riva chiude, rivolta all'Ilva. I magistrati, sentiti in qualche modo da Repubblica, parlano di vero e proprio ricatto da parte dell'azienda. L'ira dei PM, racconta Carlo Bonini a pagina 2, questo della famiglia è un ricatto irricevibile, è una decisione che porta la sola responsabilità di chi lo ha assunto. Questo fonti qualificate alla Procura di Taranto, mentre fonti all'interno della famiglia Riva, insomma, dicono non si può fare un sequestro come è stato fatto, e dunque la colpa della decisione presa è della Procura. Insomma, si innesta il solito gioco delle parti. Il dato di fatto è il vero dato drammatico per i 1.400 lavoratori, dunque le loro famiglie, che vengono colpiti in primo piano, tanto che il ministro dello sviluppo economico Zanonato, che sarà tra l'altro ospite alle 9 di Simone Spezia, 9 in punto, di cosa parla? Parla a pagina 3 di Repubblica: sto dalla parte dei lavoratori, la crisi può travolgere altre aziende. Roberto Mania lo intervista e dice: Zanonato, la nostra prima preoccupazione sono i lavoratori. In questo momento, per la verità, viene colto anche un po' di sorpresa. Zanonato dice: non sono in grado ancora di esprimere un giudizio, questo è il seguito di una storia ormai piuttosto vecchia, un cascame del sequestro dei beni dei Riva per circa 8,1 miliardi di euro già stabilito nel maggio scorso. Perché hanno preso questa decisione non lo so. Ripeto, non sono ancora in grado di fare una valutazione. Ho sentito il presidente dell'Ilva Ferrante, ma devo capire. Evidentemente questa intervista di Zanonato è stata fatta, come dire, in battuta subito dopo questa decisione. Sto studiando il dossier. Certo, posso dire che sto dalla parte dei lavoratori e alla domanda specifica: pensa che sia possibile consentire ai 1400 lavoratori coinvolti di ricevere almeno la cassa integrazione? Risponde Zanonato: sì, penso di sì. L'intervista, poi comunque alle 9 lo sentiremo a Simone Spezia. Certo, la notizia è davvero una notizia molto molto dura, una notizia interessante per l'economia. Prima del premio finale, la carta costa, riguarda pagina 5, Lorenzo Salvia, siamo sul Corriere della Sera. Una notizia che riguarda le tante 3600 società partecipate dai comuni, che spesso sono dei cimiteri per trombati della politica. C'è un decreto in arrivo sulle municipalizzate, addio ai comuni dopo 2 anni di conti in rosso. E per cercare di far fronte ai conti degli enti locali in rosso, la tagliola sulle ex municipalizzate scatterà dopo 2 anni di bilanci in perdita, con l'obbligo di vendita delle quote se quella del comune è una partecipazione di minoranza e con l'imperativo di liquidare l'intera società se invece il comune ne possiede più del 50%. Non solo, per ripianare le perdite sarà sbarrata la strada del salvataggio dall'alto, finora percorsa troppe volte. Questo è il senso di un decreto di cui il governo tornerà ad occuparsi nel cosiddetto capitalismo municipale, cioè quella galassia di 3600 partecipate ai comuni che dal perimetro classico dei servizi pubblici locali, energia, trasporti, rifiuti, si è allargata nello sport, commercio, cultura, vari ed eventuali, e che spesso fa affossare i conti dei comuni stessi. Siamo al momento più atteso, la carta costa, l'articolo più inutile trovate sui giornali oggi, e torniamo alla vicenda Berlusconi, perché si può raccontare tutto, ma proprio tutto, la politica, tiene o no il governo. Ma Tommaso L'Abate sul Corriere della Sera, pagina 9, nel suo retroscena di oltre mezza pagina, insonnia e passeggiate, da quasi un mese l'autoesilio del Cavaliere, dicono che il dramma sia la notte, a chiudere occhio durante le ore buie proprio non riesce. Allora, dice L'Abate, Berlusconi prende Dudu, il cane della Pascale, per il quale ha una venerazione, per il cane, non per la Pascale, ha una venerazione per il cane, e lo porta a fare 2 passi nel giardino. Questo cane è la mia gioia, dice a tutti. E sapete, scrive L'Abate, perché la sua gioia, da cosa si evince? Perché a Dudù è consentito a piacimento di fare i suoi bisogni come, quando e soprattutto dove vuole, all'interno della casa, speriamo non sul sofà o sul divano. E poi Dudù ha preso l'abitudine a dormirgli addosso al Cavaliere, quindi non con Francesca Pascale, col cane della Pascale, ma questo lo fa sempre di notte. Oppure Berlusconi ogni tanto vede la TV, ma non la guarda di notte, la vede così con sguardo assente, come quella volta nel giugno 2008 quando telefonò al numero in sovraimpressione per ordinare un set di coltelli. La TV non la guardo, la vedo così, sguardo vitreo. Ma Tommaso L'Abate, ma insomma, ma questi sono articoli sul cane Dudù che può fare i bisogni come e soprattutto dove vuole nella casa di Silvio Berlusconi. Amici del Corriere, Tommaso L'Abate, la carta costa, attenzione, ora è tempo di giornale radio.